ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. Sebbene non potessi aspettarmi niente di diverso, questa volta lo shock fu molto più violento di prima. Il ruscello era sempre sbarrato. Dall'altra parte, tuttavia, il rigagnolo si era un poco ingrossato. Tolsi le scarpe e mi accinsi a guadare l'acqua. Questa volta l'ince, esitante e controvoglia, mi seguì. Non temeva l'acqua, ma il ruscello era gelido e gli arrivava fino alla pancia. Mi dava noia il fatto di non riuscire a vedere la parete, così spezzai un fascio di ramoscelli di nocciolo e presi a conficcarle in terra lungo il suo confine. Mi sembrò la cosa più urgente da fare e soprattutto mi assorbì al punto da non riuscire a pensare ad altro. Piantai dunque i miei ramoscelli in buon ordine. Il mio percorso mi portò leggermente in salita fin quando raggiunsi nuovamente il punto dal quale potevo vedere la piccola cascina. Il vecchio stava sempre ritto accanto alla fontana, la mano arcuata sollevata in direzione del volto. Il breve tratto di valle che da lì potevo abbracciare con lo sguardo era inondato di sole e la luce di un verde dorato vibrava trasparente ai margini del bosco. Anche l'ince ora riuscì a vedere quell'uomo. Si accucciò, allungò il collo verso l'alto e ruppe in un lungo, straziante ululato. Aveva capito che quella cosa accanto alla fontana non era un uomo vivo. L'ululato del cane mi lacerò, come se qualcosa mi costringesse a ululare con lui. Mi lacerò quasi a smembrarmi. Afferrai l'ince per il collare e lo trascinai via con me. Ammutolì e mi seguì tutto tremante. Ripresi lentamente a palpare la superficie della parete, conficcando un ramoscello dopo l'altro nel terreno. Se mi voltavo a guardare, riuscivo a seguire i nuovi confini fino al ruscello. Era come se dei bambini si fossero divertiti con un gioco, un allegro, innocuo gioco di primavera. Gli alberi da frutto al di là della parete erano già sfioriti e avevano il fogliame lucido di un verde tenero. La parete si arrampicava ora gradualmente fino a un gruppo di larici in mezzo al prato. Da lì potevo scorgere altre due cascine e un tratto di valle. Mi irritai per aver dimenticato il cannocchiale di Ugo. Comunque non riuscivo a vedere nessuno, nessun essere vivente. Dalle case non saliva fumo. La catastrofe, secondo i miei calcoli, doveva essersi prodotta verso sera, sorprendendo i Rüttlinger ancora in paese o sulla via del ritorno. Se l'uomo accanto alla fontana era morto, e di questo non potevo più dubitare, nella valle dovevano essere morti tutti, e non solo le persone, tutti gli esseri viventi. Solo l'erba dei prati continuava a verdeggiare, l'erba e gli alberi. Il giovane fogliame vivido si dispiegava alla luce. Stavo ritta, premendo i palmi di entrambe le mani contro la parete fredda, lo sguardo fisso dall'altra parte. E improvvisamente non volli vedere più nulla. Chiamai l'ince che s'era messo a scavare sotto i larici e tornai indietro, sempre seguendo quel piccolo confine giocattolo. Attraversato il ruscello, picchiettai la strada fino alla rupe e poi tornai lentamente allo chalet. Dopo la penombra verde e fredda della gola, il sole ci aggredì con violenza quando uscimmo nella radura. L'ince sembrò averne abbastanza e corse in casa a rimpiattarsi nella nicchia della stufa. Come sempre quando era avvilito, dopo un breve sbuffare qualche mugolio si addormentò subito. Gli invidiavo quella facoltà e ora che dormiva rimpiangevo la leggera agitazione che diffondeva continuamente attorno a sé. In ogni caso era sempre meglio avere in casa un cane addormentato che essere del tutto soli. Ugo era astemio, ma aveva accumulato una piccola scorta di cognac, gin e whisky per gli ospiti che partecipavano alle cacce. Mi versai un bicchiere di whisky e andai a sedermi al grande tavolo di quercia. Non avevo intenzione di ubriacarmi. Cercavo solo disperatamente un rimedio che mi scacciasse dalla testa quel cupo stordimento. Mi sorpresi a pensare a quel whisky come una mia proprietà personale. Non credevo dunque più al ritorno dei legittimi proprietari. Ne ebbi un leggero sussulto. Dopo il terzo sorso allontanai il bicchiere nauseata. Quella bevanda sapeva di paglia ammollata nell'isolo. D'altronde, nella mia testa non c'era proprio nulla da chiarire. Mi ero convinta che durante la notte un'invisibile parete era calata oppure cresciuta, e nella mia situazione mi era assolutamente impossibile trovare una spiegazione. Non sentivo né dolore né disperazione, e non avrebbe avuto senso sforzarmi di provocare artificiosamente una simile condizione. Ero abbastanza adulta per sapere che non mi sarebbe stata risparmiata. Mi pareva più importante capire se fosse solo la valle oppure tutto il paese a essere colpito dalla catastrofe. Decisi per la prima ipotesi, perché in tal caso mi restava la speranza di essere liberata nei prossimi giorni dalla mia prigione forestale. Oggi mi sembra che in segreto nemmeno allora credessi a quella possibilità, ma non ne sono sicura. In ogni caso ero abbastanza ragionevole da non abbandonare la speranza, almeno non per il momento. Dopo un po' di tempo mi accorsi di avere male ai piedi. Mi tolsi calze e scarpe e vidi che camminando mi si erano formate delle piaghe ai calcagni. Il dolore capitò a proposito perché mi distolse da quello sterile rimuginare. Feci un pediluvio, cosparsi le piaghe con della pomata e vi applicai dei cerotti. Poi decisi di sistemarmi nello chalet nel modo che mi sembrava più sopportabile. Per prima cosa trascinai il letto di Luise dalla sua camera in cucina e lo disposi lungo il muro, in modo da poter vedere tutta la stanza, incluse la porta e la finestra. Stesi davanti al letto la pelle di montone di Luise, nella segreta speranza che Lince la adottasse come cuccia, ma non fu così, e lui continuò a dormire come prima nella nicchia della stufa. Dalla camera da letto presi anche il comodino. L'armadio lo spostai in cucina solo qualche tempo dopo. Chiusi le imposte nella camera e poi sbarrai la porta dal lato della cucina. Chiusi anche le camere di sopra e appesi le chiavi a un chiodo vicino alla cucina economica. Non so perché feci tutto questo. Probabilmente fu d'istinto. Dovevo poter dominare tutto con lo sguardo e mettermi al riparo da aggressioni. Appesi il fucile carico di Ugo accanto al letto e posai la torcia sul comodino. Sapevo bene che tutte le mie preoccupazioni erano dirette a degli esseri umani. Mi sembrarono ridicole. Eppure fino a quel momento qualsiasi minaccia era stata di origine umana, non riuscivo quindi a modificare il mio atteggiamento tanto rapidamente. L'unico nemico che avessi conosciuto in vita mia era l'uomo. Caricai la mia sveglia da viaggio e l'orologio da polso. Poi portai in cucina la legna che si trovava accatastata sotto la veranda, spaccata e tagliata a misura, e la mucchiai accanto ai fornelli. Nel frattempo era calata la sera e folate d'aria fredda scesero in casa dalla montagna. La luce del sole illuminava ancora la radura, ma tutti i colori diventavano lentamente più freddi e contrastanti. Un picchio batteva nel bosco. Fui contenta di sentirlo. Lui e il mormorio della fontana che con un getto spesso quanto un braccio scorreva nel trogolo di legno. Gettai il cappotto sulle spalle e andai a sedere sulla panca davanti alla casa. Da lì potevo vedere il sentiero fino alla gola, la capanna del guardacaccia e il garage contro lo sfondo cupo degli abeti. Di tanto in tanto credevo di udire dei passi salire dalla gola, ma naturalmente si trattava ogni volta di un'illusione. Per un certo tempo mi distrassi osservando alcune gigantesche formiche rosse dei boschi che mi sfilavano accanto in una piccola processione frettolosa. Il picchio cessò di battere, l'aria divenne sempre più fresca e la luce si fece fredda e bluastra. Il lembo di cielo sopra di me si tinse di rosso chiaro. Il sole era scomparso dietro gli abeti. Il bollettino meteorologico aveva indovinato. Pensando al bollettino, mi venne in mente la radio della macchina. Il finestrino era semiabbassato, così premetti il piccolo tasto nero. Poco dopo udii un lieve ronzio vuoto. Il giorno prima, durante il viaggio, Luise, con mio disappunto, aveva ascoltato della musica da ballo. Adesso un po' di musica mi avrebbe fatto saltare di gioia. Continuai a premere i pulsanti. Nessun suono, solo un lieve fruscio distante, che forse proveniva unicamente dal meccanismo della piccola radio. Avrei dovuto capire già allora. Ma non volevo. Preferivo credere che durante la notte qualcosa si fosse rotto nel congegno. Ritentai ostinatamente, ma dalla scatoletta continuò a uscire solo quel fruscio. Infine rinunciai e tornai a sedere sulla panca. Lince uscì dalla casa e poggiò la testa sulle mie ginocchia. Aveva bisogno di conforto, lo consolai. E lui ascoltò attento, con le orecchie tese, stringendosi mugolando contro di me. Poi mi leccò tutta la mano, con un battito di coda esitante sul terreno. Entrambi avevamo paura e cercavamo di farci coraggio a vicenda. La mia voce aveva un suono estraneo e irreale e l'abbassai in un sussurro fino a non riuscire più a distinguerla dal mormorio della fontana. La fontana in seguito mi avrebbe spaventata più di una volta. Da una certa distanza il suo mormorio risuona come il discorrere di due persone assonnate. Ma allora non lo sapevo ancora. Smisi di bisbigliare senza nemmeno accorgermene. Sentivo freddo sotto la mia mantella. Osservai il cielo che stava impallidendo in un grigiore diffuso. Alla fine tornai in casa e accesi il fuoco. Più tardi vidi Lince avviarsi verso la gola e là fermarsi immobile ad aspettare. Dopo un po' di tempo si voltò e tornò verso casa trotterellando a testa china. Si comportò allo stesso modo per 3 o 4 sere successive. Poi sembrò finalmente rinunciare. In ogni caso, non lo fece mai più. Ignoro se fosse perché aveva dimenticato oppure se nel suo istinto canino aveva afferrato la verità prima di me. Gli diedi da mangiare del riso con la carne e dei biscotti per cani e gli riempii la scodella d'acqua. Sapevo che abitualmente consumava un solo pasto la mattina, ma non avevo voglia di mangiare sola. Poi mi preparai del tè e tornai a sedere al grande tavolo. Faceva caldo ora nella casa e la lampada a petrolio spandeva la sua luce gialla sul legno scuro. Solo allora mi resi conto di quanto fossi stanca. Lince, che aveva finito il suo pasto, saltò sulla panca vicino a me e mi scrutò a lungo con attenzione. Aveva gli occhi d'un caldo marrone rossiccio, un po' più scuri del pelo. Il bianco attorno all'iride riluceva acquoso e azzurrognolo. All'improvviso fui molto contenta che Luise avesse rimandato a casa il cane. Riposi la tazza vuota, versai dell'acqua calda nella bacinella di latta e mi lavai. Poi, non rimanendo altro da fare, andai a letto. Avevo chiuso le imposte e sprangato la porta. Poco dopo, Lince saltò giù dalla panca e si avvicinò per annusarmi la mano. Quindi andò verso la porta e da lì alla finestra per poi tornare accanto al mio letto. Gli parlai affettuosamente e infine, dopo un sospiro dal suono quasi umano, il cane se ne tornò alla sua cuccia nella nicchia della stufa. Aspettai un poco a spegnere la torcia e quando finalmente la spensi, la stanza mi sembrò piombare in un'oscurità totale. Eppure non era poi tanto buio. La brace della cucina economica gettava un tenue bagliore guizzante sul pavimento e dopo qualche istante mi fu possibile distinguere i contorni del tavolo e della panca. Meditai se fosse il caso di prendere uno dei sonniferi di Ugo, ma non riuscivo a decidermi per timore di non sentire un eventuale rumore. Poi mi passò per la mente che nel silenzio e nell'oscurità della notte la terrificante parete potesse lentamente avvicinarsi. Ma ero troppo esausta per avere paura. I piedi continuavano a dolermi e rimasi lungamente distesa sulla schiena, troppo stanca per girare la testa. Dopo tutto ciò che era accaduto, dovevo prepararmi a passare una pessima notte. Ma appena mi fui conciliata con tale prospettiva, mi addormentai di colpo. Non sognai, e mi svegliai verso le 6, ben riposata, al primo canto degli uccelli. Ricordai subito ogni cosa e richiusi gli occhi per lo spavento, cercando di immergermi di nuovo nel sonno, ma naturalmente non mi riuscì. Lince si era accorto che ero sveglia, sebbene non mi fossi mossa, e si avvicinò al letto per salutarmi con un mugolio festoso, e così mi alzai, dischiusi le imposte e lo feci uscire all'aperto. Faceva molto freddo e il cielo era ancora pallido e i cespugli coperti di rugiada. Un giorno radioso si stava destando. Tutto a un tratto mi parve assolutamente impossibile sopravvivere a quella radiosa giornata di maggio. Allo stesso tempo sapevo di doverle sopravvivere e di non avere altra via d'uscita. Dovevo semplicemente conservare la calma e superarla. Dopotutto, non era la prima volta in vita mia che dovevo superare un giorno a quel modo. Meno resistenza opponevo e più sarebbe stato sopportabile. Lo stordimento del giorno precedente era scomparso. Riuscivo a pensare con chiarezza, perlomeno con la chiarezza che mi era abituale. Solo se i miei pensieri si avvicinavano alla parete era come se anche loro urtassero contro un ostacolo insormontabile, freddo e levigato. Era meglio non pensare alla parete. Mi infilai le pantofole e la vestaglia e lungo il sentiero bagnato andai alla macchina e accesi la radio. Un leggero fruscio vuoto, un suono così disumano che la spensi immediatamente. Non credevo più a qualche guasto nel congegno. Nella fredda luminosità del mattino mi fu assolutamente impossibile crederci. Ma ho scordato che cosa feci durante quella mattinata. Ricordo solo di essere rimasta per un pezzo immobile accanto alla macchina, fin quando l'umidità che filtrava attraverso le pantofole mi fece sussultare. Forse le ore successive furono così terribili che le ho dovute dimenticare. Può anche darsi che le abbia trascorse in una specie di stordimento, non ricordo. Mi ripresi solo verso le 2 del pomeriggio, quando con Lince attraversai la gola. Per la prima volta trovai la gola non più col suo fascino romantico, ma solo umida e cupa. E così anche in piena estate. La luce del sole non penetra mai fino a terra. Dopo i temporali, le salamandre chiazzate strisciano fuori dai loro nascondigli tra le pietre. Più tardi, durante l'estate, riuscii ogni tanto a osservarle. Ce n'erano molte. Spesso ne vedevo 10, 15 nel corso di un pomeriggio. Splendide creature dalle macchie rosso-nere, che in fondo mi ricordavano più certi fiori, i gigli tigrati o i turbanti di turco, che non le sobrie lucertole grigio-verdi, i loro parenti. Non ho mai sfiorato una salamandra, mentre mi piace toccare le lucertole. Quel giorno, il 2 maggio, non ne vidi. Del resto non era ancora piovuto e non sapevo nemmeno che esistessero. Allungai il passo per sfuggire a quel crepuscolo umido e verdastro. Questa volta ero attrezzata meglio, con scarponi, pantaloni da montagna e una casacca pesante. Il giorno prima il cappotto m'era stato d'impedimento. Mentre picchettavo il confine, i lembi strascicavano sul prato. Avevo portato anche il cannocchiale di Ugo e nello zaino avevo dei panini e un termos con della cioccolata. Oltre al piccolo temperino che usavo per appuntire le matite, mi ero portata anche l'affilato coltello da caccia di Ugo. Non mi serviva a nulla perché per tagliare i rami era troppo pericoloso, mi sarei solo ferita le mani. Sebbene non osassi confessarmelo, quel coltello lo portavo per difendermi. Era un oggetto che mi dava un ingannevole senso di sicurezza. In seguito lo lasciai spesso a casa. Da quando Lince è morto, lo porto sempre con me, ovunque vada. Ora però so benissimo a quale scopo e non cerco di convincermi che mi serva per tagliare dei rami di nocciolo. La parete, naturalmente, si trovava sempre dietro ai picchetti e non si era avvicinata allo chalet come mi ero messa in mente la sera prima. Non era neppure arretrata, ma questo comunque non mi aspettavo che lo facesse. Il ruscello era tornato al suo livello abituale. Evidentemente non aveva avuto difficoltà a scavarsi un varco attraverso la roccia porosa. Saltando da una pietra all'altra, riuscì ad attraversarlo per poi seguire il mio confine giocattolo fino al punto accanto ai larici, dal quale potevo vedere la valle. Lì spezzai altri rami e continuai a picchettare il percorso della parete. Era un'attività faticosa e presto per i continui piegamenti mi fece male la schiena. Ma ero come ossessionata dall'idea di dover portare a termine quel lavoro, almeno fin dove mi era possibile. Mi tranquillizzava. e portava una parvenza d'ordine nel grande, pauroso disordine che si era abbattuto su di me. Una cosa come la parete semplicemente non doveva esistere. Una volta che c'era, picchiettarla con dei rami verdi rappresentava il primo tentativo di metterla al suo giusto posto. Il mio cammino mi condusse attraverso due prati di montagna, oltre un vivaio di giovani abeti e una macchia di lamponi inselvatichita. Il sole bruciava e le mie mani sanguinavano lacerate dalle schegge e dai rovi. I rami piccoli ovviamente potevo usarli solo sul prato, nel sottobosco mi occorrevano veri picchetti. In alcuni punti segnai anche gli alberi in prossimità della parete col temperino. Tutto questo mi prese molto tempo e avanzai solo molto lentamente. All'altezza della macchia di lamponi vidi quasi tutta la valle aprirsi davanti a me. Con il cannocchiale riuscivo a distinguere tutto con molta chiarezza. Davanti alla casetta del carradore una donna sedeva immobile al sole. Non potevo vederla in viso, teneva la testa abbassata, come se stesse dormendo. La fissai, fin quando i miei occhi presero a lacrimare e l'immagine si dissolse in forme e colori. Sulla soglia stava accucciato un cane pastore, la testa adagiata sulle zampe, immobile. Se quella era la morte, allora doveva essere sopraggiunta molto rapidamente, con delicatezza quasi amorevole. Forse sarebbe stato più saggio accompagnare Ugo e Luisa in paese. Infine mi staccai con uno sforzo da quella visione serena e ripresi a piantare i ramoscelli. La parete ora scendeva lungo l'avvallamento d'un prato, dove si trovava una fattoria solitaria, poco più di una piccola masseria, come se ne vedono spesso in montagna, molto diversa dalle fattorie chiuse su quattro lati tipiche della campagna. La parete divideva in due il piccolo prato dietro la casa e aveva tagliato di netto due rami di un melo. Del resto non avevano l'aspetto di rami tagliati, parevano piuttosto fusi, se fosse possibile immaginare del legno fuso. Non li toccai. Due mucche stavano accovacciate nel prato al di là della parete. Le fissai a lungo. I loro fianchi erano immobili. Anche loro sembravano più addormentate che morte. Le froge rosate, non più umide e lisce, ricordavano una pietra dalla grana fine, graziosamente dipinta. L'ince girò la testa e guardò verso il bosco. Questa volta non proruppe in quello straziante ululato. Semplicemente non volle vedere. Quasi avesse deciso di ignorare tutto ciò che si trovava oltre la parete. I miei genitori in passato avevano avuto un cane che soleva distogliere lo sguardo nello stesso modo davanti a qualsiasi specchio. Mentre stavo ancora osservando i due animali morti, udii improvvisamente alle mie spalle il muggito di una mucca, seguito dal latrato agitato di lince. Mi voltai di scatto ed ecco il sottobosco aprirsi e farsi avanti una mucca viva e mugghiante, seguita dal cane eccitato. Si diresse subito verso di me gridandomi tutto il suo sconforto. La povera bestia non era stata munta da due giorni. La sua voce aveva ormai un suono ruvido e roco. Cercai subito di alleviarla. Da ragazza avevo imparato a mungere per divertimento, ma erano trascorsi 20 anni e non avevo più pratica. La mucca mi lasciò fare, paziente. Aveva capito che volevo aiutarla. Il latte giallo schizzò per terra e l'ince si accinse a leccarlo. Diede molto latte, tanto che per le manipolazioni alle quali non ero più abituata mi facevano male le mani. Tutto a un tratto la bestia parve molto contenta. Si chinò e accostò il suo grosso muso al tartufo bruno di lince. La reciproca ispezione sembrò avere un esito positivo perché entrambe le bestie ne rimasero soddisfatte e placate. E così mi trovai su un prato del tutto sconosciuto, in mezzo al bosco, improvvisamente in possesso d'una mucca. Era chiaro che non potevo abbandonarla. Solo allora notai che aveva tracce di sangue sul muso. Nella sua disperazione aveva evidentemente continuato a cozzare contro la parete, che le impediva di tornare a casa nella sua stalla dai suoi padroni. Di quei padroni non si vedeva l'ombra. Dovevano essersi trovati in casa al momento della catastrofe. Le tende tirate dietro le piccole finestre mi confermavano che tutto doveva essere accaduto la sera. non troppo tardi, perché il vecchio aveva appena finito di lavarsi e la vecchia col gatto era ancora seduta sulla panca davanti a casa. Una vecchia non se ne sta seduta sulla panca davanti a casa col suo gatto la mattina presto, quando fa ancora freddo. Inoltre, se la sciagura fosse avvenuta di mattina, Ugo e Luise si sarebbero trovati a casa da un pezzo. Mentre riflettevo su tutto ciò, ben presto mi dissi che riflessioni del genere per me non avevano alcun valore. Vi rinunciai dunque e con richiami allettanti perlustrai il sottobosco alla ricerca di un'altra mucca, ma nulla si mosse. Se da qualche parte nei dintorni si fosse trovato un bovino, Lince lo avrebbe scovato da un pezzo. Non mi restava che spingere la mucca per monti e per valli fino allo chalet. Così il picchettamento del mio confine si era bruscamente interrotto. Inoltre si era fatto tardi, circa le 5 del pomeriggio, e la luce del sole ormai filtrava nella radura solo in lame sottili. E così, in tre, prendemmo la via del ritorno. Fu una fortuna aver piantato i ramoscelli e non dover perdere tempo a palpare il percorso della parete. Avanzai lentamente tra la mucca e la parete, sempre temendo che la bestia potesse spezzarsi una zampa, ma sembrava abituata a muoversi sul terreno montagnoso. Non occorreva nemmeno che la incitassi, dovevo solo badare che si tenesse a una distanza sicura dalla parete. Lince aveva già capito il significato di quel confine e si teneva prudentemente alla larga. Manuela Mandracchia ha letto La parete di Marlene Haushofer, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.